alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. Il mercato di Sorman era un lungo rettangolo formato da quattro muri che in un punto si interrompevano, e quella era la porta. Per pavimento aveva la sabbia. Una volta alla settimana, il mattino del giovedì, tra quei quattro muri si agitavano accalcati venditori e compratori vestiti dell'unica veste araba, il barracano. E tutto quel bianco in agitazione sotto il sole allucinava. E poiché gli arabi si muovono e parlano come avessero nel petto una tempesta che comincia a scoppiare, se si fosse stati in Europa, quella fossa ripiena di uomini avrebbe fatto pensare a un cortile di prigionieri coperti da un lenzuolo che annunciano la sommossa. Invece semplicemente si vendeva e comprava. Capretti, stoviglie, bracciali e collane di argento, rotoli di tela, pezze di lana ruvidamente tessuta. Solo il venditore d'olio era il disegno di una favola. Magro, agile, quasi nudo, aveva un camicino che gli ricopriva parte del petto e non arrivava alle ginocchia, lasciando liberi i muscoli che guizzavano sotto la pelle bruna. Aveva gli occhi nerissimi, fanatizzati da un'intensa diavolesca allegria, e una barbetta a sciabolino che, quando alzava il volto verso l'alto, appariva ancora più rasoiata e lucida. Vendeva delle fiaschette d'olio come svolgesse un rito e si interessasse solo a quello e non della vendita. Prima di consegnare al compratore la fiaschetta, l'alzava lentamente verso il cielo libico, che è di nessun colore, tanto è fustigato dai raggi, e così la teneva sospesa mirandola come volesse misurarne i carati o volesse paragonare quel filtro, prima di cederlo, alle forze celesti. Il verde oliva che emanava dal banco e si rifletteva sulla sua persona aggiungeva ai suoi gesti luce di magia. Ma era il suo volto che lo faceva intendere un diavolo travestito, perché mentre ogni suo atto era misurato, anzi lento, il suo volto invece sprizzava un non frenabile dileggio su tutte le cose e gli uomini, e sembrava provasse, a deridere così tutto il mondo, una violenta allegria. La sua bocca si pieghettava nervosamente, specie in certi passaggi, eppure fra tutto quel clamore non pronunciava una sillaba. Per di più, poiché il suo banchetto era proprio al lato della porta, che era stretta, tutti che entravano e uscivano gli dovevano passare davanti, ed egli, pur continuando quelle misteriose e lente manovre, su ognuno, inappuntabilmente, come ne avesse il dovere, gettava un lampo dei suoi occhi, marcandolo di un bollo sardonico. Marcello, che aveva piacere a frequentare il mercato, anch'egli ogni volta era bollato dal venditore, anche quella mattina arrivò all'inizio della piazza che era necessario attraversare per giungere al mercato. Era una piazza all'italiana, con le finestre alle case e qualche terrazzo, e in mezzo aveva un giardinetto, ma era tanto polverosa e accecata e così solitaria, e il verde piegato verso il pallore, che era solo lo spettro di una piazza italiana. Anche quella mattina Marcello cominciò ad attraversarla diagonalmente, che era questa la via più corta per arrivare all'ingresso del mercato. La piazza era piena di sole, soltanto alle radici delle case c'era un rigo d'ombra. Gli arabi, stanchi per il viaggio, per il calore e il mercato, erano soliti, prima di ripartire, riposarsi in quell'unica riga d'ombra, e perciò si sedevano sul marciapiede, le spalle appoggiate al muro, la testa eretta per non incontrare i raggi. Per questa ragione, a quell'ora, si vedevano tanti tronchi sormontati da teste brune, evidente il bianco degli occhi, disposti torno torno ai muri delle case. E poiché le gambe erano abbandonate sul marciapiede secondo l'inerzia araba, e tutti erano immobili, parevano delle maschere che l'organizzatore del teatro ha in tal modo disposto per una qualche ragione. Però quella mattina tale disposizione in un punto era rotta, infatti circa una ventina di arabi, tutti accrocchiati sulle ginocchia, facevano un fitto capannello, incurante del sole, ed erano rivolti verso il muro dove c'era qualcuno, anch'esso accoccolato, che parlava loro. Era Mahmud, la sua testa vicina alle altre, e tutte ricercavano la sua. Una letizia illuminava il suo volto, che aveva un'espressione umilissima, e gli pronunciava, per farsi meglio intendere, paragoni semplicissimi, indicava con l'infallibilità che gli dava la religione quale era la via degli arabi nelle circostanze di questa guerra. Benché gli arabi che l'ascoltavano già avessero fiducia in loro stessi, egli questa fiducia aumentava e consolidava, in modo che poi quelli, a loro volta, avrebbero ripetuto ad altri con più fervore le indicazioni di Mahmud. C'era in quel momento la guerra nelle loro terre, gli stranieri si combattevano tra le loro case. mentre quando Mahmud parlava con gli ufficiali italiani usava la naturale dissimulazione orientale, qui in mezzo agli arabi era selvaggio, era puro, si consolava, lui stesso si rifaceva forte e sicuro. Gli arabi che l'ascoltavano avevano in lui fiducia assoluta. Mahmud in quel tempo voleva da loro una sola cosa, che si mantenessero arabi, e quelli che l'ascoltavano volevano la stessa cosa. Ne nasceva che quel capannello di uomini accrocchiati sulle ginocchia, bagnati dal sole che non sentivano, tutti rivolti con le teste a bere l'animo di Mahmud, erano come un quadro miracoloso per prepotenza di vita. Quando gli animi sono così liberi che la pesantezza del corpo è abbandonata e l'aria che è tra loro e li circonda sembra che essa stessa sia fatta passione umana. Marcello, abituato a essere attento perché è nato e cresciuto sotto una dittatura, ma anche facilitato all'attenzione della sua natura, notò subito quel capannello e deviò disavvedutamente i suoi passi, rallentandoli un poco, in modo da dover poi, per entrare al mercato, sfiorare quel gruppo e, poiché quelli erano tutti con le ginocchia ravvolte in se stessi, dominarlo e rubare quel che c'era. Intanto, avvicinandosi, si sentì salire un rossore nel volto scorgendo Mahmud e indovinando quel che faceva. Solo uno che è stato sotto la tirannia può con un lampo capire e soffrire certi aspetti e subito vergognarsene, accorgendosi di aver cambiato improvvisamente la sua parte. Infatti Marcello in quel momento era lo straniero, colui che domina, che ha l'uniforme del suo tiranno. Mahmud parlava anche contro di lui. Marcello intanto, rosso come un collegiale, era ormai a pochi passi dal crocchio e Mahmud, rapido e sensitivo, alzò gli occhi, lo scorse, si dispiacque di essere stato sorpreso in quel luogo e con l'espressione del viso appassionata e in quel che poté rimediò facendo invece più palese la verità. E infatti, da seduto e avvolto che era, si alzò e fece troppo in fretta un saluto cerimonioso, come si preoccupasse di far capire a Marcello che non doveva avere sospetti, che tutto procedeva regolarmente, che gli arabi fedelmente salutavano. E qui si vide anche inoppugnabile la seconda verità, che gli arabi amavano Mahmud, ne avevano assoluta fiducia, che sapevano con chiarezza che lui si esponeva, era capace di ogni arte, e tutto questo per difenderli e proteggerli. Mentre Mahmud si prosternava nel saluto, nessuno alzò la testa o la volse, nessuno partecipò a quella deferenza e neppure ebbe curiosità. O Mahmud aveva spiegato in un attimo chi stava per arrivare e come ci si doveva comportare, o addirittura egli era così signore e in comunione con i suoi che comunque egli si comportasse, essi lo comprendevano. A Marcello parve, mentre con la stessa cerimoniosità tentava di rispondere al saluto, di intravedere in qualche labbro di arabo, tra la fessura delle ciglia chinate, l'ironia tinta perfino di derisione, e se il nostro eroe, dopo aver sorpassato il gruppo, si fosse all'improvviso voltato, avrebbe visto, forse con un po' di dispiacere, che non si era sbagliato. E Marcello, tutto rosso, più nell'animo che nel volto, si trovò già dentro il mercato. E la sua prima considerazione fu che egli non era, come avrebbe amato, in quel luogo come un sereno spettatore, ma era e restava un italiano con il suo passato, la storia del suo paese e personale. Era un attore, un vivo attore del suo tempo, e la guerra, anche se non appariva ufficialmente, era proprio tra lui e Mahmud, con tutto il dolore e l'ingiustizia che c'è nelle guerre, perché loro due che capivano e si capivano e avrebbero potuto essere amici, e in segreto e in pubblico mai mancarsi di rispetto, si facevano invece tiri. E pochi giorni prima Marcello aveva goduto sardonicamente, approfittando della scienza medica, a denudare il suo harem. Ora Mahmud derideva Marcello, salutandolo con acre cerimonia, isolandolo nella piazza piena di sole, snudandolo come disumano straniero che senza essere invitato cammina armato in un paese altrui, con abitanti antichissimi, di civiltà per certi lati così raffinata che nessuno, o quasi, osa confronto. E ora all'improvviso Marcello si trovava in quel mercato di Sorman con carte rovesciate, come se beffardamente, lui chiamava dimenticarsene, qualcuno lo avesse prepotentemente riportato alla verità, che cioè ogni uomo è dentro la sua legge, deriva dal padre, dalla madre, dalla lunghissima storia dalla quale è impossibile uscire, e mai è esistito nel mondo alcun imbroglio. e cioè che si deve. È impossibile non pagare. Dopo la dissoluzione di Graziani e dei suoi fumosi raggruppamenti, ci si trovò a Tripoli con pochi soldati smarriti da una fuga lunghissima, con niente da opporre, né moralmente né materialmente, con il nemico che si avvicinava tranquillo e ricco, il quale nemico era aspettato con fatalità e quasi letizia, che così si diceva, era finita una cosa che così doveva finire. Pochi giorni prima di questo disastro era sbarcata a Tripoli una divisione che poi si dimostrò di eccezionale forza, chiamata l'Ariete, la quale per il momento era sì al completo, ma ignota. E tale era l'incredulità ormai profonda degli italiani su se stessi, che se fosse apparsa una divisione di oro zecchino e qualcuno avesse detto che era di tale metallo, nessuno ci avrebbe creduto. Inoltre in Tripolitania, tra le nostre uniche forze rimasteci, v'erano alcune, poche, divisioni di fanteria, quali la Pavia, la Bologna, che erano stanche e tristi per il deserto, essendo state stupidamente tenute a presidiare della sabbia per molti mesi, ma innanzitutto erano prive di armi moderne e di automezzi, infatti i soldati andavano a piedi e possedevano il solito e deriso e monotono fucile 1891 e qualche mitragliatrice Fiat solita a incantarsi. In più pezzi da 149 e 117 e qualche altra cosa non creduta e non stimata. Cannoni anticarro, per esempio, queste divisioni di fanteria non ne avevano, né altro che assomigliasse ad armi moderne, ma innanzitutto giganteggiava la sfiducia e la fretta di finire prigionieri. Così stavano le cose in quella Tripolitania che non aveva più confini, che da un minuto all'altro aspettava gli inglesi, ai quali subito avrebbe ceduto, quando, mentre i superstiti della Cirenaica raccontavano cose sbalorditive sulla potenza del nemico e sulla nostra debolezza, una notte nel porto di Tripoli si accesero le luci. Questo fatto della luce nella notte, proprio sul porto, mise a soqquadro i tripolini, poiché era da tutti urlato, per paura dei bombardamenti aerei, di zittire ogni luce, anche la più piccola. Fra l'attonito stupore delle guardie libiche e della maggioranza degli italiani, nel porto illuminato a giorno, i tedeschi cominciarono a sbarcare. Tutti rimasero in attesa incredula. Erano per arrivare gli inglesi, intanto sbarcavano i tedeschi e intanto passò la notte senza che l'ombra di un aereo si presentasse sopra Tripoli. Fino ad allora le nostre truppe erano sbarcate tra grande confusione e con le facce scure. Per sbarcare una divisione ci volevano al minimo 3 giorni e nello sbarco si faceva sì che ce ne volevano 10 per ritrovarne tutti i pezzi e ricomporla. La mattina dopo, con i guanti bianchi sopra le mani, sorridenti, sicuri, sbarbati, sopra una numerosissima costruzione d'acciaio, i tedeschi sfilarono per Tripoli. Fuggiaschi cirenaici e attendisti tripolini li stettero a guardare. E intanto la maggioranza, che fino a un minuto prima diceva che gli inglesi erano buoni e generosi, e i nostri amici, ritornò e di lì a poco rifu verbalmente fiera, poiché questa folla non aveva convinzioni e dignità, e appena luccicava il più forte si inchinava, non avendo nulla da mantenere e difendere. Ed è una particolare attitudine degli italiani a inghiottire saliva davanti alle parate. E si iniziò il secondo periodo della guerra libica. I tedeschi non si fermarono un minuto a Tripoli. Si avviarono subito alla volta del loro nemico, che aveva le prime propaggini nel mezzo del deserto sirtico, verso Naufilia. E per una somma di ragioni in parte giuste e in parte sbagliate, non aveva approfittato del nostro disastro per arrivare definitivamente fino a Tripoli, che infatti tranquillamente ci sarebbe arrivato in quegli assai numerosi giorni che gli italiani erano niente e i tedeschi non erano ancora sbarcati. Ma gli inglesi non lo fecero, forse perché stanchi del lungo deserto e insieme meravigliati della facilità della loro guerra, sicché divennero incerti. Ma più perché i comandanti non ebbero la forza di decidere su ciò che vedevano. Forse aspettavano ordini e informazioni da chi era distante. Insomma, gli inglesi indugiarono e i tedeschi con pompa e tranquillità sbarcarono a Tripoli e si diressero verso il deserto della Sirte. A noi italiani non dissero molte cose, come non ci fossimo, facendoci appena un sorriso come a significare che erano arrivati e ora sistemavano tutto. Ed era chiaro che i tedeschi erano lieti di avere di nuovo i piedi sull'Africa e consideravano la Libia nient'altro che un punto di sbarco. E il loro fine era la conquista dell'intera Africa. L'esercito italiano, così ridotto in miseria morale, la quale v'era anche prima ma mascherata, e materiale, riprese un leggero respiro e per l'orgoglio segretamente ferito, per essere costretto a stare in contatto con un esercito che conduceva modernamente la guerra, per imparare facilmente guardando, l'esercito italiano si modificò un poco nell'ordine e nell'onestà. E intanto, come si diceva, pochi giorni prima del disastro Graziani era sbarcata a Tripoli una divisione corazzata chiamata Ariete, fatta da bresciani e milanesi, solidi soldati e seri, che conoscevano le armi e avevano nella vita privata dignità e compostezza, parchi di parole, non dediti alla suggestione, la quale divisione era armata come quelle tedesche. L'Ariete si mosse verso il nemico insieme ai tedeschi. Taccuino ritrovato nella cassetta militare del tenente Marcello. Tripoli, 17-11-1940. Per mezzo di una lettera di raccomandazione sono trasferito dall'oasi di Sorman a Tripoli, al reparto neurologico dell'ospedale militare Busetta. Senza data, vidi un prete davanti al mare di Tripoli, con la tendina nera sopra l'occhio mancante e l'altro vivo. Era nel sole, indossava una veste bruna, lunga, con morbide pieghe, da vita agile. La corona di osso nero, lucida, la portava sospesa, come un chiodo, al dito indice della mano destra che teneva sporgente dal suo corpo. Camminava davanti a sé. L'occhio superstite ogni tanto sembrava si inumidisse di malinconia. Ma la rosa abbacinava, una rosetta come una fanciulla bionda, vergine e tremante. C'era una rosa là, alla fine della corona, non la croce. Una rosa imporporata di languido pudore. Era un prete arabo. Non la croce con l'uomo inchiodato. La corona finiva in una rosa di vergine. 14-12-1940. Stamani hanno portato all'ospedale il corpo del sottotenente inglese aviatore caduto stanotte su una terrazza araba, poiché essendosi tirato giù dal suo apparecchio colpito, il paracadute non gli si è aperto. E ha quindi il suo corpo colpito una terrazza araba, si è sfracellato. Solo la maschera della faccia si intravede, il cervello si era disperso nel casco di aviatore e per il vestito. Aveva le mani lunghe, pallide e in certi punti paonazze. Aveva la camicia bianca con i polsini inamidati. Le sue ossa si erano frammentate, però non si vedeva il loro bianco, perché in parte nascoste dai vestiti, in parte fasciate dalla carne. Un tacco dello stivale si era schiodato, ma era ancora attaccato alla scarpa. Il sottotenente aveva la divisa di panno nero. Il colletto bianco inamidato era come strappato dal collo. Si vedeva il gemello che era rimasto. Ora è nell'obitorio. Aveva i capelli che tendevano al biondo. 25-12-1940, ospedale Busetta. I nostri fratelli muoiono. Ora è arrivata la salma di un altro marinaio. Ieri la torpediniera Fratelli Cairoli, davanti a Misurata, è entrata in un campo di mine ed è affondata. Ci sono tanti morti che galleggiano intorno al campo di mine. Oggi hanno cominciato a ripescarli. Un marinaio di quella torpediniera era da diversi giorni ricoverato in questo ospedale e quindi, non essendo a bordo, si è salvato. Adesso costui è pallido davanti all'obitorio, vede passare i suoi compagni affogati. Uno di questi era del suo paese e abitava vicino a casa sua. Erano stati sempre insieme. Senza data. Gli ufficiali fanno di tutto, ogni salamelecco, pur di non pensare. Rifiutano il ragionamento come un cibo guasto. 28-12-1940. È difficilissimo che si ascolti un pensiero. Tutti ripetono frasi udite alla radio. Vivono da sensitivi, per impulsi affettivi. Sono sempre particolari, personali. Non escono mai dallo stretto cerchio, che desiderano mantenere stretto, e, se possibile, farlo strettissimo. La cortigianeria sventola sul campanile ed è talmente adorata e il loro naturale che lavorano tutto sotto questo drappo. Ormai gli italiani sono giunti vicino alla bestia, non c'è quasi più differenza. Con un facile trucco di dirsi tutti eroi, si sono fatti contentissimi. Per ritornare uomini avranno bisogno ancora di molte bastonate. È faticoso rimuovere una radicatissima e comoda vigliaccheria. Oggi è giunta la notizia ancora vaga che si sparano delle fucilate a Murzuk e a Non, nel deserto sahariano, dalla parte della Tripolitania. Dalla Cirenaica si sa che a Tobruk sono entrati gli inglesi. 29-12-1940. Entrammo nella sala. C'era un Buddha che cantava. Davanti a lui, a semicerchio, i suonatori, sulle sedie, sbilerci, con chitarre e mandolini arabi. Egli nelle pause si reggeva e leggermente sollevava con le mani la tonda pancia e ripeteva, essendosi asciugato col fazzoletto il collo e la fronte sudate, serio, appassionato, usuale, come parlasse, il canto. Amara la bocca, un padre che incolpa e difende il figlio. Era davanti al microfono, nella stanza di trasmissione della Radio Tripoli. I suonatori di chitarra erano vestiti male, all'europea, le scarpe gialle non pulite. Lui completamente arabo che parlava al mondo. Una voce monotona, un oratore popolano. Narrava di storie musicate, dell'araba cieca, del deserto. Ogni tanto si taceva e le chitarre continuavano, ma di fronte a lui erano facile eco. Infatti durante il canto, pur esse suonando quasi più forte della voce, lui tutto tratteneva su di sé, abbracciava, difendeva, spiegava e, come temesse che gli ascoltatori non avessero capito, ripeteva con maggiore accuratezza. Nelle pause le chitarre, che riecheggiavano lui, avevano un suono di incredulità, come volessero dire che già lo sapevano che gli ascoltatori non si sarebbero commossi. Il canto era una sola nota ripetuta, ripetuta, come la vista del deserto. Sudato tra una canzone e l'altra, si asciugava con un lungo fazzoletto il collo di Buddha. Stava seduto, gli occhi tondi, le mani grasse, le pieghe della pancia, un lenzuolo bianco atteggiato a lunga camicia lo ricopriva. Senza data, due arabi, giovani, alti, si incontrarono. Uno dei due ritornava dalla guerra. Erano avvolti dal barracano. Stesero uno verso l'altro le mani destre, le strinsero. Poi, subito dopo, ambedue veloci portarono la propria mano alla bocca e la baciarono sul dorso. Erano fermi, di fronte uno all'altro, eretti. I barracani accompagnavano i movimenti dei due giovani. Di nuovo le mani si stesero e furono strette. Di nuovo i baci. E questo è un rito affettuoso frequente fra gli arabi, di stringere la mano all'amico e poi baciare la propria, forse a testimoniare l'amicizia con non solo la mano, ma l'intera persona che bacia quella mano che ha stretto. Mentre avvengono questi fatti, è una danza delle mani e baci. Gli occhi degli arabi brillano, essendo nerissimi, in maniera molto viva. Gennaio 1941. Improvvisamente nel sonno vi furono due esplosioni. Salivano dalla terra. «Sono venuti, capitano!» dissi nel sonno, alzandomi. Nello stesso tempo si sentì il motore furioso dell'apparecchio che risaliva nel cielo. La luce elettrica non c'era più. I sogni troncati mi continuavano impacciando i movimenti. La testa mi era sordastra. Urtavamo nei vestiti, nella seggiola. Nel corridoio sentimmo la sirena lunga, nel buio. La mitragliera antiaerea, che era a 15 passi da noi, cominciò a sparare come liberasse una rabbia che covava. Ora c'erano esplosioni da ogni parte. La casa dove ero aveva pareti bolse, sembrava che la stiracchiassero. In fondo alle scale trovai alcuni marinai di Areggini che abitavano nella mia stessa casa. Ogni tanto si sentiva il motore che ci passava sopra, ma quei due colpi che si sparsero per tutta Tripoli furono l'inizio della guerra. Prima non c'era stato nulla. Si incominciava. Da una finestra vidi un incendio nel porto. Pensai a quelli della Pia, carichi di benzina, che dormivano a bordo. L'incendio giallo gonfiava, sembrava un calmo fiore. Con un'amara trepidazione mi avviai al porto. I miei non erano stati colpiti. gennaio 1941. Quando si bombarda un porto, i bastimenti sono nel porto, separati uno dall'altro, da dell'acqua, in modo che le bombe cadano piuttosto tra l'uno e l'altro, e non su di loro, se è possibile. A bordo, in uno di questi, a Tripoli, custode c'era Favaccia, il quale era un mozzo di 15 anni, con gli occhi assonnati e la voce cantilenata, tale un marinaio avvezzo a ogni corda. Ma non era vero. Dormiva a bordo solo con 3 gattini appena nati, che aveva raccolti su una porta, e che dormivano vicino a lui, nella stessa cuccetta, 3 gattini da soppesare tutti e 3 in una mano. La notte a Tripoli si sentiva la sirena, perché il bombardamento si iniziava. Favaccia si svegliava, il porto era illuminato dai razzi che i volatori notturni avevano lanciato, poi tiravano giù le bombe. I bastimenti erano in mezzo alla luce, allora Favaccia spingeva la schiena nell'angolo scuro della cuccetta, si apriva i bottoni della camicia, prendeva i 3 gattini e se li metteva nel tepore del seno. E attentissimo alla morte che si poteva avvicinare in brevi attimi, li cullava teneramente. Era un ragazzo di 15 anni. Gli apparecchi passavano sopra. Ogni tanto si sentiva improvvisamente l'elica dell'apparecchio che scendeva ululando sempre di più verso il bastimento. Gli schianti, le bombe, i proiettili dell'antiaerea si frammischiavano. All'alba il bombardamento non c'era più, nel cielo c'era un azzurro marcio. Favaccia allora montava in coperta, poi staccava il gozzo, e da mezzo il porto, dove era ancorato il bastimento, remava fino alla banchina, dove a quell'ora c'era sempre qualche viareggino. Favaccia lo vedevamo avvicinarsi, era felice vedendoci. Quando era a pochi metri, con una voce che si strappava per la gioia, «Era un inferno, Dio!» E salito in terra, ormai in mezzo a noi, riprendeva allora a parlare con la ruvida cantilena del marinaio rotto. Ma non era vero. 7-2-1941. In Cirenaica c'è una completa rotta. Chi lo ha potuto è fuggito come ha potuto. Tripoli dista moltissimi chilometri dalla Cirenaica. Sono stati usati camion, autoambulanze, i colonnelli che si aggrappavano a camion, che fuggivano. Molte donne e bambini sono stati lasciati là. Non avevano l'automezzo per fuggire. Da queste parti, senza automezzo, non ci si muove, essendoci centinaia di chilometri da un'abitazione all'altra. A Derna, la città essendo rimasta sola, prima che venissero gli inglesi, gli arabi si sono dati al saccheggio. I carabinieri che erano rimasti a Derna sembra che abbiano sparato sugli arabi, ma le notizie che portano dalla Cirenaica ai soldati fuggiti sono colorate dall'emozione e dalla paura. Tripoli è piena di donne e bambini che prima della sconfitta sono riusciti a fuggire avendo un automezzo o venendo con l'aereo qualche giorno fa. Molti dicono che gli inglesi arriveranno fino a Tripoli. Quelli dell'Africa orientale sono in condizioni peggiori delle nostre. Qui all'ospedale di Tripoli molti, tra ufficiali e soldati, accusando e lamentandosi di malattie, cercano di andare in Italia con la nave ospedale. Molti preparano rivoltelle e fucili per difendersi dagli arabi, in caso che questi selvaggiamente ci assaliscano. Da qui sembra che in Italia non abbiano capito nulla, o non gliene importi. Non ho più voglia di scrivere su questi avvenimenti, eppure necessari per far nascere qualche pensiero nella mente degli italiani. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia, di Mario Tobino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Regia di Francesca Zammarelli. Ad alta voce @rai.it